Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Primi, buonasera a tutti, benvenuti nelle frequenze di Blu Radio Veneto. Questa è Blu Radio Sera, la programmazione serale. Oggi è martedì 31 luglio del 2012, praticamente abbiamo mangiato anche luglio. Maurizio, buonasera. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. E allora, in finale di luglio abbiamo un bellissimo finale riservato sempre alla musica dal vivo, la musica acustica. Una cantautrice che ci viene a trovare da Verona, è già stata nostra ospite qualche tempo fa, però è sempre graditissima, ha addirittura le chiavi della radio in versione dorata e quindi diamo il benvenuto a Veronica Marchi. Grazie, buonasera, grazie, Veronica. Grazie per le chiavi soprattutto. Certo, beh, dopo te rifacciamo una copia okay, se poi nel frattempo le hai smarrite. Comunque, bentornata, benvenuta. Grazie, Veronica, ancora un nuovo prodottino ti vede protagonista in questo frangente, quindi un album datato 2012 che si intitola La guarigione. Ecco. Abbiamo già messa lì abbiamo già messa lì il motivo principale per sì, cui è uscito da poco, insomma, per cui sì, sto andando in giro per insomma far parlare un po' di questo disco. Lo stai sì, promuovendo, quindi, praticamente. Esatto. Quindi insomma questa capatina a Blu Radio Veneto insomma ci stava per certo parlare del disco. Benissimo. Allora, La guarigione è l'ultimo lavoro di Veronica Marchi, un lavoro un po' particolare rispetto a quelli che abbiamo ascoltato in precedenza, ma cerchiamo di capire subito dall'inizio, Veronica, il perché del nome La guarigione. C'era un qualcosa che bolliva sotto, che voleva far conoscere una tua emozione? Ma intanto il titolo del disco viene anche dal titolo di una delle canzoni che poi c'è dentro, ma in realtà La guarigione è un po' alla fine diventato il concetto finale di tutto il disco, nel senso che mi sono accorta che era la cosa più importante che mi portava dietro da un po' di tempo, 4 anni anche per fare un disco ha avuto il suo significato, sì, nel senso che ci ho messo il mio tempo, quantomeno, insomma, potrebbe essere tanto o poco, però quindi una guarigione nel senso che appena iniziata, perché non, assolutamente guarigione per me significa nel senso lato rinascita o eventualmente un punto di partenza. E quindi nel caso delle canzoni del disco è stato semplicemente fermarmi, come penso sia forse anche naturale per ogni artista o per ogni persona, non solo magari chi fa musica, pensare e poi chiaramente ripartire. E quindi per quello dicevi tu giustamente, un disco particolare, perché non ho fatto altro che in realtà non inventarmi una cosa nuova, ma fare quello che faccio da 15 anni, cioè suonare in acustico. Suonare assolutamente in e acustico. E ce l'ho messo nel disco. Alla fine ho fatto forse per la prima volta la cosa più giusta e sensata e forse coerente. Certo, anche perché tu sei giovane, non diciamo l'età, ecco, perché è una signora, no, non si chiede e non si rivela, però sei giovanissima e comunque hai già sottolineato che da 15 anni sei protagonista delle scene. Perché ho iniziato ero piccola, 14 anni quando ho fatto il mio primo concerto in acustico, per cui sono veramente tanti anni, ecco, ho già detto quanti anni ho, sì. Quindi abbiamo fatto tanto per cercare di non dirlo, i matematici all'ascolto hanno fatto un rapido calcolo, vabbè, comunque no, non importa. Assolutamente sì. Però sì, ho fatto una scelta naturale, sì, per cui niente di complicato. Benissimo. E allora, per far conoscere appieno quello che è il messaggio musicale di Veronica Marchi, prima di continuare a parlarne, direi di presentare subito un primo pezzo che è proprio tratto dalla guarigione e si intitola Passanti distratti. Eccolo qua. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Giorno io diventerò una grande scrittrice. Un giorno il mio sorriso sarà sparpagliato in ogni vetrina, e nel Natale del 2029 tu sarai fiero di me. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato un brano davvero speciale, si intitola Passanti distratti, l'album si intitola La guarigione, a proporcelo Veronica Marchi, che è anche qui in questa serata per farci ascoltare anche le sue canzoni dal vivo. Ancora benvenuta Veronica. Grazie. Allora, passanti distratti, c'è un inizio un po' sconcertante di quello che sta succedendo in giro, tuttavia esistono i passanti distratti, come giustamente dici, sì, tu. Ma partiamo dall'origine di questo disco, perché tu nelle dediche finali all'interno del tuo libricino, che contiene anche i testi delle canzoni, prendi Simona come punto di riferimento. Ah, perché, sì, perché cosa è successo? Ma Simona non è più nemmeno una mia amica di Torino, in realtà è siciliana, è musicista anche lei. È stato un periodo in cui ci scambiavamo a distanza, delle email, dove davamo degli spunti artistici. Lei era in crisi totale nella scrittura, io pure. E non si è accorta di avermi mandato lo spunto iniziale per il testo della canzone che abbiamo appena sentito. Quindi la primissima parte, tipo questa cosa catastrofica degli aerei che cadono e tutto che si distrugge, è sua. E sì, quindi ho reso grazie. Le rockstar che muoiono. Esatto, un disastro. Un quadro generale di quello che sta succedendo magari negli ultimi anni. E da lì sono partita con l'idea per fare poi il disco, pensando un po' a questa visione dei, cioè, passanti distratti. Alla fine siamo un po' tutti, cioè, certo, alla fine noi, per cui... Non più tardi del lunedì scorso, tra altre cose, è mancato anche John Lord, sì, mitico tastierista di Purple. Come se cadessero i pilastri tutti insieme, sì, no? Sì, sì, sì, sì, sì. A proposito di rockstar, questo disco è stato registrato in presa diretta, come si faceva una volta, molto tempo fa. come mai Veronica? Perché tu dici, mi hai detto microfono spento, perché una volta si faceva così. Sì, io non so, ho fatto un ragionamento insieme ai miei musicisti, abbiamo detto, è stato anche lì abbastanza naturale, abbiamo detto l'unico modo forse per, perché questa era una cosa che veniva da anni di critiche, soprattutto dalle persone che mi ascoltavano, mi dicevano, cacchio, dal vivo tu funzioni, poi quando ascolto il CD non sento quella roba lì. Allora ho detto forse è il caso di pensare di fare quella cosa che faccio dal vivo nel disco. Perché nel libro, perché nei dischi precedenti non eri libera, no, come sei stata in questo disco. Diciamo che non sono stata magari capace di essere più sicura di me, quindi decidere determinate cose. Ho scelto delle strade che adesso probabilmente non rifarei, però comunque amo i miei dischi e li porto dietro volentieri. Ecco, per questo disco qua, per cui ho fatto una scelta che in realtà era provare almeno con coraggio, perché poi è stato più che altro quello, avere il coraggio di dire proviamo a vedere se funziona. Poteva avvenire veramente anche una cosa brutta, non lo sapevo. Però adesso, diciamo, risentendolo, devo dire che sono soddisfatta, almeno di come è andata. Sì, sì, anche noi confermiamo che questo prodottino non è niente male. No, molto, molto diverso da quelle che sono state le tue produzioni precedenti, anche ci hai un po' stupito in positivo, perché nell'album, ad esempio, L'acqua del mare non si può bere, che è di qualche anno fa, quindi quattro anni fa. Sì. Sì, c'era più una venatura folk, pop, pop rock, anche volendo chiamarlo in causa, mentre in questo c'è tutta un'atmosfera molto più intimista, forse anche in alcune sensazioni un po' buia, diciamo, no? Quindi ti guardi dentro, sì, dove c'è il buio che però subito provoca una luce, certo, perché interna. Un disco, io lo considero un disco positivo, poi in realtà l'intimismo porta sempre a una dimensione magari solitaria, per cui effettivamente porta a pensare che il disco sia stato concepito in più che la stanza, pensando delle cose. Quindi sì, hai ragione, effettivamente c'è questa differenza. Però in realtà è solo maturata un po' la scrittura, come meno male è successo, per fortuna è stato così, altrimenti passando poi quel momento di crisi che comunque ho avuto in questi 4 anni, mi sono fidata e ho detto adesso. Vedi che comunque le crisi non arrivano mai per fare del male, no? Molte volte. Qualche volta ne usciamo, qualche volta no. Qualche volta ne usciamo, qualche volta restiamo all'interno del tunnel, però da dentro o da fuori si riesce comunque a dare dei messaggi. Nella musica io trovo l'unica via veramente sicura. L'unica via per uscire dal tunnel, mentre c'è qualche cantante, qualche artista, come magari dirà anche Maurizio, che nel tunnel ci rimane per sempre. Sì, diciamo. Esattamente. Ha fatto un po' ha vinto il totocalcio andare nel tunnel. Sì? Penso di sì, per molto. Lui sì. In ogni caso tu hai citato questa dimensione nuova, ma grazie anche ai tuoi musicisti hai trovato questa nuova dimensione. Sì, loro devo dire che sono stati molto insistenti fin dal primo momento, e ancora stavo registrando il secondo disco, e soprattutto Andrea Faccioli, che è il chitarrista, che comunque ha delle grandi doti di arrangiatore e di produttore. Ti sei affidata a lui praticamente. Sì, diciamo che l'ho ascoltato in quello che già io sapevo che era la cosa giusta, e ho fatto l'inverso di quello che ho fatto per tutta la vita, cioè ascoltare solo me stessa e gli altri non esistono, ho solo ragione io, no? Ho sempre fatto così. Poi a un certo punto mi sono fermato e ho detto qua non funziona tanto bene, e allora nel caso di Andrea e poi Maddalena, chiaramente, perché poi noi siamo un trio che lavora in maniera affiatata ormai da Maddalena da 11 anni, non ci sopportiamo più ormai, e Andrea insomma un po' di meno, però diciamo che questa unione ha portato bene. Benissimo, poi gli archi, Maddalena suona gli archi, esatto. è già positivo. E non solo, perché ognuno di loro, due, suona una serie di strumenti infinita, per cui organetto, armonium, archi, chitarre. Questa dimensione di strumenti non prettamente giovani, un po' antichi, tra virgolette, come mai la scelta di questo strumento un po' particolare, molto intimista, come ha detto giustamente Flavio, un po' oscuro, forse tenebroso in alcuni momenti? Perché siamo fondamentalmente molto malinconici. Ah, ok. Vabbè. E comunque, quindi, voglio dire, c'è una bella scoperta anche di quelli che sono gli strumenti antichi che magari vengono anche lasciati da parte, tipo sono molto rock, secondo l'auto me, harp, piuttosto che il bella harp, che sono delle arpe, diciamo, in versione chiusa, lo spieghiamo ai nostri ascoltatori, esatto, con dei registri da dove si può molto ottimizzare il suono. Molto acuti, sono particolari perché poi dipende da come li utilizzi. Questi suoni applicati alla musica, alla fine cantautorale, se vogliamo anche pop, perché alla fine i brani miei sono rimasti con una venatura immediata, per cui mi è andato soltanto un vestito un pochino più particolare, che fosse era bene quello che cercavamo. Allora ricordiamo i nostri ascoltatori che stiamo piacevolmente conversando con Veronica Marchi, La guarigione è il suo nuovo lavoro. Abbiamo ascoltato prima il primo brano, Passanti distratti, proprio l'album di apertura, e adesso ricordiamo che c'è anche qualcosa di acustico, ecco, che si può ascoltare, no? Sì. E quindi cosa ci ascoltiamo in questo frangente? Vi faccio sentire, visto che abbiamo sentito la canzone che apre il disco, facciamo la canzone che invece lo chiude bene che si chiama La passeggiata. Benissimo, allora ci ascoltiamo La passeggiata con Veronica Marchi qui a Blu Radio Veneto. La sorpresa oggi è la mia musa, mi accompagna in questa passeggiata. Qualche volta mi fa bene andare in giro senza meta. Ogni cosa sembra colorata, da una mano ingenua e spensierata. Mi guardo le punte dei piedi e rido di me. Le scarpe sono scivoli, i miei pensieri su questa città che stamattina sembra solo mia. Farei pace con i miei nemici, i rancori rendono infelici, si riflette il mio profilo nelle strade, penso a te. Oh, mani in tasca incontro le paure, vento tiepido di fine estate, la gente che passa e non vede a metro da sé. Le suole sono amanti dei chilometri, ad ogni passo danzano d'amore. Oggi è il giorno che non penso a niente. Radio Sera. Blu Radio Sera. Che poi non cambia molto, da disco in live acustico è sempre lei, originale. A confermare certamente proprio che buona la prima anche all'interno del disco, perlomeno si suppone sia così o in quasi, realtà, è sì, vero? Più o meno. Quindi, perché c'è, sarebbe da raccontare Certo, sarebbe quasi buona la prima, dai. Esatto, quasi buona. Sì, da passanti distratti alla passeggiata che corrisponde quasi a una stessa figura, seppur vista in una maniera forse un po' più positiva, no? Perché in questo punto del disco tu prendi aria come Dante Alighieri che esce a guardare le stelle dopo aver camminato per lungo e per largo tra inferno, purgatorio. Non ci sarei mai arrivata questa intuizione. Comunque, vabbè, ogni tanto ci arriviamo, facciamo dei voli pindarici anche in questo senso. E la cosa bella, perlomeno chi avrà modo di ascoltare il disco, che poi ricorderemo anche come fare, anzi, ricordiamolo subito, come si fa per entrare in possesso di una copia del disco? Ma allora, intanto venimi a vedere i concerti, è la cosa fondamentale. Poi chiaramente si trova in tutti i negozi di dischi, sì, e più facilmente insomma nei megastore, ecco, per capirsi. E poi è ordinabile ovviamente dal sito dell'etichetta, che se non mi ricordo male è cabezonrecords.com, che ho paura di dimenticarmi, e lì ordinabile può arrivare a casa. E poi chiaramente si trova su iTunes, quindi è scaricabile anche acquistandolo da lì. Bene. Sono vari modi diversi. Perfetto, lo ricorderemo anche durante il prosieguo della trasmissione. Tra altre cose, è da ricordare che Maddalena Fasoli, all'interno di questa canzone, non suona i suoi abituali strumenti. Gli hai dato una macchina da scrivere. Da scrivere, sì, sì. Lei questa chicca così, tutti si interessano. Macchina da scrivere, come tutti sanno, non ha note, però. No. Certo, però i nostri nomi, perché lei ha battuto a macchina i nostri nomi, la cosa fondamentale, chiaramente, se no non poteva essere così bello il suo contributo. E chiaramente, no, a noi interessava un'idea così, tipo come se fosse una ritmica, e in realtà suona così, anche se va fuori tempo rispetto al tempo della canzone. Sì, anche perché il fuori tempo è un po' da uno, sì, un po' ubriaco, diciamo così, no? Sì, e non a caso la parola ubriaco viene fuori anche dopo, in quelle che sono i cori. Che è stato un viaggio, perché questo studio abbiamo fatto il disco, è enorme la stanza, e praticamente ci siamo messi tutti dentro questa stanza e siamo impazziti per tipo mezz'ora. Sì. E abbiamo cantato a squarciagola il ritornello, perché eravamo veramente come se fossimo ubriachi. E allora si ritorna al discorso di una volta, come si registrava il disco di una volta, eccetera. Esatto. Una jam session, esatto. Sì, tutti insieme. E questo, secondo me, anche secondo noi, è il pezzo più pop dell'intera raccolta. Sì, volendo, è quello più immediato. Anche nel concerto singolo pop, potremmo chiamarlo. Infatti è la prima canzone che stiamo, diciamo, facendo girare, e sta per arrivare anche un video che è già pronto in realtà, ma aspettiamo prima di settembre, perché chiaramente poi sono tutti in vacanza un po' così, e quindi i primi di settembre uscirà questo fantastico video, chiaramente low budget e con la regia mia, e ne vado molto fiera. Hai fatto proprio tutto stavolta, assolutamente tutto, tutto. Molto bene, perso niente. Anche mi perché perso niente. Voglio dire, le terapie di lavori in servizio servono sempre, perché poi i soldi divertite da dar fuori ce ne sono sempre molto pochi, in effetti. Poi al buono alla prima si aggiunge anche le diciamo alcune volte i dispendi economici che ci sono per far fruttare un disco e per registrarlo nella miglior posa possibile, diciamo. Certo. Sì, certo. In questo caso, dove hai registrato il tuo disco, Veronica? Abbiamo fatto nello studio che si chiama Sotto il Mare di Luca Tacconi a Verona, in realtà povegliano veronese. È uno studio che poi ha avuto il contributo lavorativo anche di Dario Caglioni, che è stato chiaramente nella sua esperienza dietro il mixer di tanti artisti famosi, e è stato poi lui chiaramente quella lampadina che si è accesa. Lui ha lavorato tantissimo sull'acustico e sulla presa diretta e sulla bobina, perché poi anche questo è l'altro dettaglio del disco. Esattamente. Che questo dobbiamo sottolinearlo, della bobina. Sì, e tra l'altro c'è proprio un taglio drastico alla fine di un pezzo, che è finita la bobina, sì. E abbiamo ricominciato con l'altro taglio. Ma su si un sente altro anche tra il pezzo numero 2 e il numero 3, mi sembra di ricordare. No? In realtà questa cosa particolare l'abbiamo tenuta per la fine di Acqua. L'inizio del brano Solo un incubo, che poi sentiremo. Perché ricordavo che c'era questa cosa che sembrava un attimino sgraziata, però poi ho detto forse questa era qualcos'altro, qualche altro vezzo. Questa sì, ecco, probabilmente stiamo riferendo anche a questo. Ho detto, ma può essere. Allora, andiamo avanti nell'ascolto di questa La Guarigione, che ricordiamo essere dedicato a tutti i passanti distratti, come dici tu all'interno del libricino, vicino al CD c'è proprio scritto questo. E allora diamo spazio a un'altra canzone, quindi prendendo di mira Tempo. Eccola qua che ce l'ascoltiamo. Andiamo. Blu Radio Sera. Mi sono alzata relativamente presto, ho sistemato tutta quanta la mia stanza. Ho preso tempo, che di tempo ne ho abbastanza, per dedicarmi veramente a tutto il resto. Ho camminato avanti e indietro per la casa, preso coscienza e confidenza con le cose. Capito che al mattino sono meravigliose queste finestre spalancate sulle mie difese. Piano un'altra pagina del libro, con la lentezza che mi contraddistingue, ho riso dentro alla mia anima impazzita, ironizzando anche sul minimo dettaglio. In questa estate che sa farsi compiacere, ho aperto tutte le mie porte al dispiacere, fatto uscire, spero adesso sia per sempre, l'abitudine a mentire, a dire che va tutto bene, va tutto bene. Dimmi, questo è il tempo per dimenticare tutto, dimmi che non è già troppo tardi per un tempo giusto, ascolta il mio silenzio, c'è un deserto di certezze, dammi il tempo per capire che del tempo mi posso fidare. Dimmi, questo è il tempo per dimenticare tutto, dimmi se c'è tempo, ancora tempo. Ciò in cui io mi riconosco riflette sempre ciò che sono, il quadro appeso cade dal suo chiodo e non c'è colla che lo possa riparare. Tempo, al tempo, la chiave nella serratura, aspetto, coraggio, mi stendo, mi slancio, afferro il mio infinito, tremo, è tutto più chiaro al ritorno. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Tempo, si intitola così la canzone, dalla guarigione di Veronica Marchi, un testo assolutamente di grande filosofia e soprattutto di grande attenzione a se stessa, no? Perché tu ti alzi al mattino presto, perlomeno lo descrivi in questa canzone relativamente presto, poi è sempre una questione di orologio, basta non averlo il mattino presto e quando ti alzi senza particolari problemi. Però non è un dettaglio questa prima frase, perché in realtà io mi aggancio a questa cosa che stavi dicendo, perché è fondamentale, appunto ti parlavo di una crisi, no? Sì. E allora c'è stato almeno 2 anni successivi al secondo disco in cui ho detto basta, non scriverò mai più niente di interessante, ero proprio, ho detto basta, non ci sarà più niente di bello. E quindi tendevo un po' a dire non riuscirò, e cercavo di spremere qualche canzone che non arrivava, arrivavano solo cose un po' in sospeso, e la mia sveglia era sempre più tardi. E non andava bene questa cosa, infatti invece per me è un segnale magari di quando sto bene, mi sveglio presto, molto presto. Sì. E perché il mattino ha l'oro in bocca, e per cui sì, è particolare, questo non vuol dire che poi la giornata finisca presto. Sì, sì, sì, sì. Però il tempo che mi sono data, che descrivo anche nella canzone, per riuscire a capire che stava arrivando magari un risveglio, era legato anche al momento del... Quindi svegliarsi anche un momento prima per dedicarsi un po' di più a se stessi, anche magari guardando il soffitto, ci si elaborano... Sì, esatto. Sì, ci si rimette a posto, diciamo, con quella che è la giornata che verrà. Quindi tempo, una canzone davvero anche da un punto di vista tecnico molto eterea. Sì, parlavamo infatti prima della tensione che c'è, sì, che abbiamo voluto tenere. Parlavamo anche della costruzione difficile di questo pezzo, adesso ce la puoi spiegare dal vivo con i microfoni aperti. È stato molto bello perché in effetti, come dicevo prima, appunto ero arrivata a costruire la canzone a cui mancava qualcosa e c'erano le strofe, c'era una parte del ritornello, però non riuscivo ad aprire quello che si dice, proprio aprire il pezzo. E allora in questo caso sono entrati in gioco i miei musicisti, a cui ho detto Maddalena e Andrea, mettetevi in gioco, vediamo cosa succede. Allora è stato bellissimo perché siamo stati un pomeriggio insieme, non era mai successo, e quello è stato anche il segnale per cui cominciavo anche ad aprirmi a loro, in cui abbiamo costruito questa, diciamo, questa tensione musicale che poi, diciamo, si sfoga nel finale. Ma cosa mancava? Che briciolo mancava? Che momento mancava perché il pezzo veramente prendesse piede come volevi te? Staccarmi un po' dai... Io facevo suonare il pianoforte per tutto il brano, non mi fermavo mai, per esempio, questa è una cosa tecnica, continuavo a suonare forte, molto forte, invece Andrea mi ha detto stai un po' più indietro. Per esempio queste piccole cose, quando sei dentro la canzone la scrivi tu, se non riesci ad alzarti sulla sedia a guardare dall'alto, non riesci a vederle sempre. E quello è l'importanza di avere qualcuno vicino, perché quando scrivi i pezzi tuoi non riesci a capire se veramente il pezzo ha delle lacune oppure no. In questo caso è stato fondamentale confrontarmi con loro, e loro hanno trovato le soluzioni giuste al momento giusto per un brano che poi secondo me ha preso la forma che doveva essere. Benissimo, allora stiamo parlando con Veronica Marchi, il titolo dell'album La Guarigione, torneremo a ripeterlo ancora una quarantina di volte da qui alla fine della trasmissione per fare la giusta pubblicità che si deve a un bel disco. Allora, questo è il terzo album, ricordiamo, di Veronica Marchi, però ci sono state anche delle esperienze, diciamo, complesse, nel senso di gruppi. E quindi ci sta ancora pensando positivamente? È stata una cosa normale, diciamo, passare da gruppo a esperienza solista, oppure... Ma tu forse stai parlando di Mary Posh? Sì, sì. Io sto parlando di Mary Posh. Pensa, ma guarda, in realtà i Mary Posh sono arrivati nel mentre che io avevo già cominciato da anni a avere la mia carriera da cantautrice, ed è stato una parentesi tra gioia e dolore, diciamo, di 6 anni. Di quello che si chiama progetto parallelo, facendo così, però in realtà era molto spesso in conflitto con quella che poteva essere la mia strada da sola, e a un certo punto con molto dispiacere, perché poi continuo ad amare le cose che fanno, ho detto addio, diciamo, alla band. Perché eri dentro nei Mary Posh, amavi Mary Posh. Io ero totalmente dentro, e poi quando tu sei dentro Mary Posh fai fatica a venire fuori. Certo, certamente. Perché è una famiglia, è stato comunque duro. E quindi anche il modo di vivere la musica per loro, e quindi anche per me di conseguenza, è sempre stato molto forte. Si parla di rock abbastanza pesante, per cui insomma... Sì, diciamo, insomma, per gli ascoltatori che vogliono essere un po' curiosi, Mary Posh è un gruppo di rock psichedelico, definiamolo alternativo, così, assolutamente alternativo, cantato assolutamente in italiano. Per cui io ascolto questo genere, lo amo, per cui in realtà non è stato niente di difficile o di strano. All'inizio sì, poi è stata un'esperienza che mi ha dato tantissimo, però ho voluto viverla come un'esperienza. E quindi a un certo punto, come tutte le cose che sono state anche belle, vanno chiuse. Hai staccato la spina. Sì. Però hai staccato la spina... Anche perché volevo dedicarmi alla mia musica, perché certo, era qualche anno che cominciavo anche un po' a tirare indietro. E la guarigione possiamo anche... porla in questo senso, la guarigione, l'allontanamento da certi dettami, da certi schemi, forse guarigione anche in questo senso, cosa dici? Ma non è legata assolutamente a quello che è stato, per esempio, il mio percorso, ripeto, tra virgolette, parallelo con loro. Con i Maripesh. Perché comunque io leggo piuttosto questa fantomatica guarigione a un viaggio che è iniziato dentro di me, cioè con me stessa, non c'entra niente, nessuno che ho avuto intorno. Peggio, perché così non posso dare la colpa a nessuno. Ah, ecco, per quindi se c'è stato qualcuno che ha fatto qualcosa di sbagliato, sono stata io. Ok, benissimo. Quindi... benissimo, allora diciamo, do the right thing, fai la cosa giusta, prendi in braccio la chitarra, ecco, e adesso... sospettato. Lo sospettavi, ecco. No? Bene, allora, cosa possiamo ascoltare? C'era quella sì, come forse, tu mi vedi. Sì, così come mi vedi che... che ci collega direttamente a quello che abbiamo appena detto, per cui è un buon brano in questo momento, visto quello che stiamo dicendo. Bene, Veronica Marchi, così come mi vedi, da La Guarigione, qui a Blu Radio Veneto. Ho salutato chi mi ha tradito, ho dato il mio rispetto a chi mi ha calpestato l'anima, ho perdonato cose che se Dio sapesse mi direbbe stupida. Ma io sono così, così come mi vedi, testarda questo sì, ma libera da limiti. Me lo insegnavi tu, e adesso cosa resta? Cado e ricado nello stesso errore, la pioggia non bagna ma resta l'odore, se intanto dolore, la perdita è l'unica via per l'amore, non voglio sapere. Ho fatto le mie considerazioni, preso le distanze da chi non si sa decidere ad essere sinceri, non ci ho guadagnato niente, solamente questa musica, oh, misera. Ah, io sono così, così come mi vedi, testarda questo sì, ma libera da lì. Cibo cinese, il fumo, le attese, la porta che sbatte, silenzio che inghiotte, le due primavere, le lacrime al sole, la scuola di notte che aspetto, mi manchi, ti voglio sposare, milioni di cose da dire in un girasole che cambia colore, vorrei, non vorrei, ma vorrei il tuo amore. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ancora benvenuti, carissimi ascoltatori, siete all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto. Io sono Flavio Bilato, assieme a me Maurizio Calzavara. In questa serata di martedì 31 luglio del 2012 c'è Veronica Marchi, che è venuta a trovarci ancora una volta per presentarci un altro bellissimo suo lavoro. Diciamo che questo è l'album molto maturo rispetto agli altri, lo stiamo ascoltando nonostante la giovane età di Veronica Marchi, però si sente quella marcia in più che all'interno di questo album che si intitola La Guarigione, senza disdegnare comunque gli altri precedenti lavori che per chi ha avuto modo di ascoltarli o perché li ascolterà dopo questa trasmissione, insomma, danno proprio a vedere quello che è il passaggio artistico di Veronica Marchi. Allora, abbiamo ascoltato Così come mi vedi, forse quella che è la canzone, Veronica, che un po' ti fa da specchio dell'anima, Così come mi vedi. Sì, è una delle poche canzoni, ma in realtà nel disco è forse la prima volta in cui sono abbastanza chiara, nel senso che fino adesso ho sempre scritto un po' in maniera volutamente criptica, senza premere l'acceleratore. Sì, ecco. Stavolta invece cominciamo a dire la verità, l'hai premuto. Così com'è. In realtà questa canzone è nata nel 2008, poi ha vissuto vari cambiamenti, ma brevi, perché in realtà è la classica canzone dei 15 minuti, una scarica proprio di adrenalina, ero veramente incazzata nera. È quasi rap praticamente. Sì. Una Veronica in versione rap. Ero proprio, sì, ero fuori di me e quindi ho avuto questa scarica, e chiaramente viene da 4 anni prima rispetto a quella che poi raccontavo prima, è stata un po', insomma, un momento di crisi. L'ho tenuta come canzone che poteva stare bene nel disco, perché effettivamente ha questa venatura che mi piace molto, della verità, insomma, del dire le cose così come sono, insomma. Un pezzo simile dal vivo, come lo puoi fare? Cosa ci metti? Che potenza ci metti? Quel brano che veicola un po' di più le emozioni, insomma, quelle più forti, per cui proprio... ti metti sul palco, al centro del palco, per 15 minuti continui a cantare. Potrebbe anche essere una buona idea, esatto, ma qualcuno se ne va a un certo punto. No, perché no, non è detto. Ma allora, sì. Nelle esperienze di Veronica Marchi ci sono anche, oltre che le esperienze appunto cantautorali, quindi che la vedono protagonista assoluta del palco, anche delle esperienze, diciamo, di gruppo, in questo caso gruppo teatrale. Sì. Allora, vogliamo parlare di queste esperienze? Tra altre cose, appena ho letto qualcosa riguardo ai tuoi spettacoli, subito scappa un sorriso a tutti, perché hai lavorato o stai lavorando anche assieme a Natalino Balasso. Certo, non potevo fare altrimenti, siccome io ho un futuro come comica, perché ho detto, se mi va male con la musica, allora mi sono agganciata subito a Balasso. In realtà è stato un incontro bello quello con lui, perché stavo suonando in un contesto, insomma, un festival, e lui faceva la sua performance e mi ha fatto l'aggancio alla vecchia, no? Mi ha detto, mi piaci, ti do il mio biglietto, dammi il tuo, e dico, ti richiamo. E poi siamo partiti a lavorare dopo poco, perché lui partiva con questo progetto molto pretenzioso e cattivante che si chiama Fog Theatre e che è proprio il teatro della nebbia, cioè lui mette insieme in questo spettacolo un sacco di spunti teatrali, in mezzo c'è la musica fatta da me e Patrizia Laquidara, per cui anche lì una bella occasione a lavorare con lei, chiaramente un'esperienza, insomma, più vasta della mia. Anche Patrizia Laquidara ha avuto il piacere, per noi l'onore, di essere qui con noi diverse volte nella presentazione. Anche l'ultima volta presentando il disco in dialetto vicentino, bellissimo. E ancora prima di diventare famosa, ancora prima di andare con Pippo Baudo, sì, no? Sì, quel periodo, sì, la settimana prima era qua da noi. È vero. Lo ricordo sempre con grande piacere quei momenti. Allora, adesso è arrivato il momento di ascoltare un brano davvero particolare. Forse è il mio preferito, perché ha una costruzione davvero fantastica. Rasenta il comico, forse un po' anche grottesco. Il grottesco, direi. Sì, esatto. Il grottesco. Voluto... l'hai voluto chiamare solo un incubo, e adesso capiamo anche il perché. Blu Radio Sera. L'altare così come l'avevo immaginato. immaginato non mi sembra rispondere alla mia immaginazione, piuttosto la prospettiva dalla porta dell'ingresso alla chiesa distorta e confusa. Ti amo, l'avremmo detto 100 volte ed ogni volta cercare una nuova conferma d'amore, ma adesso questo vestito che indosso non sembra più avere lo stesso valore. La sposa è sempre la più bella ed è un dovere universale che appaia felice e sicura di sé. Così farò il mio ingresso come da copione trionfale, tutti si volteranno a guardare. E che splendore, che emozione, che un respiro leggero farebbe rumore, che orrore se proprio adesso sul più bello dovessi inciampare. Io non volevo. Che dividono il mio corpo dalla meta, li ho sognati così tanto da dimenticare la vera forma delle cose, di malata d'amore incosciente liceale a tentare di accontentare volontà di tradizione, credendo così di riuscire a provare un impegno, un onore, ma quale sarà il mio valore? Io non Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Si intitola Solo un incubo, la guarigione, l'album di Veronica Marchi, è venuta qui stasera per presentarcelo. E abbiamo ascoltato un'altra canzone, come si definiva prima, che una canzone che rasenta il grottesco, si intitola Solo un incubo e narra forse una storia a metà strada tra il felice e l'infelice, tra il ma non sapevo, ma faccio la cosa giusta, ma... Ma insomma, cosa nasce? Il giorno, non è il giorno prima degli esami questo? No, è il giorno prima di sposarsi. per qualcuno è peggio, per qualcuno no, è vabbè, peggio. Io comunque, sì. In realtà ho preso un pretesto, perché poi in realtà può essere, come spesso dico quando faccio un concerto per spiegare magari un po' la canzone, che io ho parlato del matrimonio, ma in realtà potrebbe essere qualsiasi altra porta davanti a una persona. Io ho immaginato la porta della chiesa, che penso che per... Le famose sliding doors, sì, che ci sono anche in Passanti distratti, volendo, per cui ci sono nel disco varie volte queste immagini. E anche in questo pezzo c'è questo terrore di dover assolutamente compiacere. E la figura della sposa era già venuta fuori in un altro mio pezzo, cioè che in Fine da Coerenza, che è nel secondo disco, per cui ritorna un po' questa visione dell'obbligo legato a questa cosa, che bisogna assolutamente sposarsi, fare le cose in un certo modo, perché bisogna... È sempre una questione di maturazione, comunque. Ecco, c'entra con questo. In realtà ho utilizzato questo argomento, ma in realtà non è così, perché è comunque una gioia. Pensare al matrimonio, non penso assolutamente a una cosa terrificante. E in questa versione di piano proprio trasmettevi l'ipnosi assoluta, tipo una persona... Parlavamo prima, Flavio, un discorso molto tedesco. Molto tedesco, molto tedesco, e parlavamo di Amanda Gallas. Te la ricordi di Amanda Gallas? Oddio. Era tremenda, letteralmente tremenda. Lei usava usava il piano, no? A sì. livello così dolce come la Veronica, usava il piano a livello molto ipnotico, molto percussivo, come fosse una batteria, ed entrava dentro nella carne. Era tremenda di Amanda Gallas. A questo punto mi ricordo anche Jerry Lee Lewis che suonava il pianoforte con tanto di piedi, con le scarpe addosso. Non sono ancora arrivata tanto, però e questo incubo musicalmente è proprio così. Probabilmente parte da lontano, tu sei stata molto dolce, molto delicata, ma se partiamo da lontano, di Amanda può darsi che ti abbia anche ispirato. Ecco, chi lo sa, io un po' l'ho ascoltata, però non ti dico consciamente di averla diciamo emulata, però c'è qualche richiamo sicuramente a questa musica rigida. Esattamente. Sì, sì. Molto bene, allora Veronica Marchi, La Guarigione, vediamo di parlare anche di quelle che sono, diciamo, le mutazioni dagli album precedenti. Prima si parlava così sui generis, mutazioni dal pop rock, si va verso questa situazione, sì, definiamola pure pop, ma forse molto più chiusa, come si diceva prima, intimista. Il passaggio che è durato 4 anni, ma adesso faresti ancora delle canzoni del tuo primo Veronica sì. Marchi, piuttosto che dell'acqua del mare sì, non si sì. può bere? Io continuo dal vivo a fare sempre i brani dei primi due dischi, e chiaramente alcuni, magari non tutti, perché poi viene sempre una selezione. Sono dei brani che non canto più, ma non tanto perché non mi piacciono più, perché magari non me ci rivedo come ci vedevo magari appunto 6 o 7 anni fa. Perché li canteresti alla robotica e non più alla... Sì. È strano, penso che capiti a tanti che fanno musica questa cosa dell'allontanarsi qualche volta da qualche brano, ma in maniera molto naturale. Della serie non fare i concerti per fare jukebox, ma per fare un concerto. C'è una canzone che io continuo in perterita a cantare, l'ho scritta a 15 anni, si chiama Bambina, non ve la faccio perché mi viene la nausea, però continuo con i concerti, per esempio quella è una canzone che io continuo a fare. Allora ricordiamo agli ascoltatori che se vogliono essere più curiosi e vedere qualcosa di più di Vanna Marchi, Veronica Marchi, ecco, non so che fine ha fatto quella signora. Non lo so. Speriamo non la fine mia. No, assolutamente. Vabbè, no, Veronica Marchi, chiedo scusa. E, possono andare appunto anche su YouTube, dove c'è anche un riferimento alla bambina. Certo, ci sono tantissimi video e poi tra l'altro l'unico altro videoclip che abbia mai fatto nella mia vita, che risale appunto al 2005. Che sembra quasi, a vedermi veramente sembra passato una vita. Sei però proprio la bambina, no? Bambina in questo sì, caso. Sì. Ma tu hai deciso di citavi i pezzi di un tempo. C'era De Gregori, mi viene in mente Flavio, che De Gregori odia profondamente Alice Non Lo Sa, perché tutti quanti chiedono sì. Alice Non Lo Sa, e sono passati tanti anni, lui non la vuole più fare. C'è una canzone che tu non vuoi più fare. Linea 31. Non ce la faccio più, proprio quella non ce la farei proprio. Ma non tanto perché, proprio, ripeto, non mi piaccia, è perché... è un passato dimenticato. È stato l'embrione di altri brani che ho scritto, e quindi la vedo un po' come una canzone che non era finita, ma l'avevo messa comunque nel disco. Io la considero ancora insoluta, come altri pezzi che alla fine ho voluto a tutti i costi mettere nel primo disco, ma sono irrisolti. Ho capito. Che potresti anche cambiare totalmente, infatti, modificare. C'è il progetto di riprendere. Sì, di prendere i pezzi. Tra l'altro sono due dischi introvabili al momento, trovati su eBay a dei prezzi assurdi. va bene per te. Ma tu ne hai a casa, hai le copie. Una copia rotta. Ah, una copia rotta. Succede sempre così, gli artisti poi devono andare in cerca al mercatino dell'usato molte volte per trovare gli originali. Perché prima o poi faremo un disco acustico, perché comunque rimaniamo magari nel periodo adesso, e prendendo i pezzi dei primi dischi. Bene. Benissimo, allora ancora un'imbracciata alla chitarra, sì, perché questa volta direi che potremmo ascoltare... Mi consigli tu? Sì, dai, facciamo che... Cosa devo fare? Facciamo che ascoltiamo... Sì, dai, metto dentro la monetina, ecco qua, adesso schiaccio A15, allora ci ascoltiamo Piedi Nudi. Ah, sì, ok. Bene, eccola qua. Come il cielo cambio le stagioni, come il cielo cambio le parole, il sapore delle sensazioni, mi veste di profumi sempre nuovi, ma quello che vive, quello che vive dentro di me, dentro di me non ha stagione, non ha tempo, non ha luogo e nemmeno un momento, ha solo il tuo sapore. Corro per le strade del mio cuore, chiedo scusa alla dolcezza del tuo ardore, ma cerco pace, cerco pace nell'immenso di me, nell'immenso. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Entusiasmante esperienza acustica anche questa sera. Benvenuti a tutti, sempre Blu Radio Veneto all'interno della programmazione serale con un po' di fantasia chiamata Blu Radio Sera. Ancora benvenuti a tutti da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Abbiamo Veronica Marchi, ci sta presentando la sua La Guarigione, e così si intitola l'album. Abbiamo ascoltato questo Piedi Nudi, una canzone molto distesa, rilassante, melodica, romantica, insomma che fa trasparire quella che è la sincerità, la chiarezza, la trasparenza dell'anima di Veronica Marchi. Beh sì, in effetti anche questo è un pezzo che poi ho riassemblato nel tempo, nel senso che sono parole che sono uscite veramente tanti anni fa e poi riprese. È un brano quindi che ha attraversato il tempo e che poi in maniera abbastanza naturale è arrivato in questo disco, dove è stato molto bello lavorare. Per esempio, questo è l'unico brano dove si può dire che non c'è la presa diretta dal punto di vista degli altri strumenti rispetto alla chitarra e la voce, che sono stati in questo caso buona la prima, cosa che invece non è stata per tipo Così Come Mi Vedi, che abbiamo registrato per un giorno intero. Siamo andati avanti tipo 24 ore a cercare la versione giusta, e questo pezzo è arrivato alla prima esecuzione e poi ho sovrainciso personalmente tutti gli altri piccoli strumenti e le voci, per cui è diventato una sorta di brano a strati, dove c'ero sempre io che sovraincidevo. Certo, tra altre cose è proprio negli accrediti a questa, canzone ci sei solo tu come descritta, con voce, chitarra acustica, pianoforte, glockenspiel e cori. Esatto. Quindi te la sei fatta goduta e poi l'hai fatta anche ascoltare agli altri. Comunque bel pezzo anche questo, Piedi nudi si intitola così. Allora, leggendo un po' quella che è la tua biografia, anche se sei molto giovane, è già una biografia ben nutrita, nel senso che essendo partita giovanissima, sì, ce n'è da raccontare. Allora, si voleva parlare anche di quelle che sono le tue esperienze al di fuori dal tuo ramo cantautorale. Prima abbiamo parlato dell'esperienza teatrale, ma parliamo anche di quelli che sono i tuoi progetti di presentazione di brani di altri artisti, che sì, immagino, certo, ti piacciono anche, sì, come riferimenti. Quindi stiamo parlando di Leonard Cohen, stiamo parlando di Jeff Buckley. Sì, sono i due live che da un po' di tempo a questa parte, in maniera saltuaria, porto avanti. Sono due tributi, in realtà, a Leonard Cohen in italiano, quindi con la traduzione dei testi, una cosa abbastanza impegnativa. È un po' che non propongo. E poi il live dedicato a Jeff Buckley, che né più né meno un tributo mio personale, una rivisitazione dei brani suoi, però in questo caso pianoforte e voce, quindi dove ho impiegato, diciamo, il mio impegno a cercare di fare un po' più mie le canzoni, insomma. L'altra cosa, c'è una cosa in comune tra Leonard Cohen e Jeff Buckley, una, certo, canzone che si intitola Hallelujah. La fai? Ah, sì, se sì, ricordo. La fai qua? No, assolutamente. Allora, guarda. Sì. Il problema è sempre sul testo, sempre dei... Sai che ci... Sì. Però visto che è in inglese, spero che nessuno l'ascolto. Vabbè, non importa. Allora, chi sa l'inglese, cambi per un attimo frequenza. Ascoltiamo Veronica Marchi, Hallelujah, Leonard Cohen. Per non andare... Heard it was a secret chord that Davy played, and he pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. The beauty and the moonlight overthrew ya. And she tied you to a kitchen chair. She broke you from and she cut your hair. And from your lips we drew. Blu Radio Sera. Avete presente come vengono i fuori programma? Eccoli qua. Era proprio questo fuori programma. Era un fuori programma non concordato prima. Possiamo proprio farvi fotografare la scaletta. Perdono anche... per questo taglio ingrato del pezzo, però era quello che ricordavo. Bene. Per non rischiare. Alleluia, Leonard Cohen in una versione un po' più, come dire, aperta, diciamo, perché Leonard Cohen ama proprio sussurrare, forse un po' anche complice la sua voce, e naturalmente Jeff Buckley, un altro suo idolo, lo fa molto più sofferto, no? che non Leonard Cohen, forse anche più cantato, forse sì, e anche la versione, diciamo, più conosciuta, perché affidano a Jeff Buckley la canzone Alleluia, certo. Molti dimenticano che è di Leonard Cohen. A proposito di questo, c'è un aneddoto sul disco di Leonard Cohen da parte del presidente della Columbia. Quando Leonard Cohen costruì il pezzo e costruì il disco, il presidente della Columbia disse a Leonard Cohen: ma non lo pubblichiamo neppure negli Stati Uniti, non venderà niente, vendete 4 milioni di copie. Quindi l'imbecillità qualche volta dei dirigenti delle case discografiche. Una cosa volevo chiederti, Veronica, che difficoltà hai nell'approccio dei testi in italiano di Leonard Cohen? Ma all'inizio è stato un trauma, perché più che altro ti affidavi a De André qualcosina? Ma sì, me lo ricordo molto. In realtà è stato, diciamo, ecco, la cosa interessante è che le traduzioni non le ho fatte io, e mi sono arrivate da persone che hanno utilizzato dei termini il più possibile simili a quelli che sono i termini in inglese di Leonard Cohen. Del maestro, sono dei termini, esatto. Lui sono delle parole che sono molto forbite e complesse, per cui in italiano magari non suonano proprio bene. E allora il risultato è molto, veramente bisogna ascoltare con ancora più attenzione. Quindi all'inizio io ho detto: aiuto, non ce la farò mai a rendere vive queste parole, perché sono veramente pesantissime, cadono per terra, sembra che facciano un rumore c'è assordante. Anche Susanna tra queste? No, la scelta delle cover è stata molto ricercata. Abbiamo evitato totalmente i grandi successi, a parte l'Alleluia, che in italiano, devo dire, è strana. Cioè, infatti non la canto spesso in italiano, però in questo contesto dello spettacolo dedicato a Cohen ci sta. È particolare, va ascoltato. È stato bello andare a Cracovia, quando c'è stato uno dei vari raduni che si fanno in tributo a Cohen, sentirlo cantato in polacco. Però, cioè, polacco. Già è duro di suo, certo. Più in polacco è stato un viaggio. Quindi mi sono resa conto che forse l'italiano è forse più musicale. Per di cui tutto. Sì, molto, nonostante si dica il contrario, che è difficile, esatto. Eccetera. No, molto bello. Bene, lo pensano così anche gli esteri, perché poi anche Toto Cutugno da quelle parti è molto ricercato, anche da noi è ricercato, ma solo per farlo fuori. Ecco. No, stiamo scherzando, naturalmente, anzi, grande salutiamo onore. Il buon Toto. Sì, sì, anche perché ha portato in giro per il mondo la buona musica italiana. E allora, ancora la musica italiana si fa sentire attraverso il disco di Veronica Marchi, La Guarigione. Questa volta sapete cosa andiamo ad ascoltare? Proprio La Guarigione. Proprio La Guarigione, ecco. Brava, eccola qua. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Cominciare a vivere, piangere, poi ridere, per ricominciare a vivere. Io non guarirò finché pace. Le cose accadono nel mezzo. mezzo di un percorso, lasciando dietro sé quel gusto amaro del rimorso, di tutte quelle cose che volevi e non hai fatto, di tutte quelle cose che pensavi e non hai detto, di tutte quelle cose che volevi e non hai fatto, di tutte quelle cose che pensavi e non hai detto. E penso che ti aspetterò, e penso a te, non tornerò, e penso che pensando io non guarirò. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Anche questa è una canzone bella, trasparente, rilassata, pettinata. Eccola qua, abbiamo ascoltato La Guarigione. Ci sono due chitarre, c'è un armonium, sì. C'è una batteria sottile, sottile in sottofondo. E la tua voce molto molto dolce e carezzevole in questo tratto di album. Mi è piaciuto il termine pettinato, scusami, però sì, non l'avevo bello, mai no? sentito. No, nel senso molto... Sì, ecco. Però è bello. Sì, bello, lo scriviamo, dai. Ecco. Anzi, l'abbiamo registrato e dobbiamo dire ai nostri ascoltatori che questa piacevolissima trasmissione sarà anche sistemata all'interno dei nostri archivi sonori, quindi riascoltabile andando sul nostro sito internet bluradioveneto.it nella pagina riservata a Veronica Marchi e la puntata di questa sera. Ci sarà anche la possibilità di riascoltare la trasmissione in tutto in parte a seconda della volontà e del tempo che hanno i nostri ascoltatori. In questi ultimi periodi assolutamente vince sempre il mordi e fuggi, però noi invitiamo sempre a un ascolto rilassato delle proposte musicali. E quindi attraverso www.bluradioveneto.it non solo, potrete anche vedere quelle che sono state alcune delle foto scattate in questa serata, così da vedere i nostri bei faccioni e anche della protagonista molto delicata, sensibile, carina Veronica Marchi. Allora, Maurizio, tu avevi... Sì, no, dobbiamo ricordare il batterista che non hai citato. Ah, sì. Certo, ma sai perché? Perché lui è un molto, molto special guest, come lo dico io. E lui adesso è entrato a far parte, diciamo, del progetto, ma essendo un progetto, diciamo, come arrangiamento e come già struttura nato per il trio. Esatto, per il trio. Lui è arrivato poi, in realtà è una persona che conosco da tanto tempo, un grande amico anche di Andrea, e si è incollato in maniera magica ed effettivamente Nelide Bandello, che ha questo ecco, nome esatto, sì. Molto facile da ricordare, e, diciamo, ha avuto questa funzione di entrare e utilizzare la batteria in maniera come se fosse quasi un altro strumento a corda, perché in realtà nel disco non si percepisce una vera batteria, a parte nel brano, l'unico forse che non sentiremo oggi, uno dei due, La Simbiosi al passo di un gatto, dove lui suona le catene sui timpani, quindi... Ecco, un personaggio particolare. Ma perché l'idea, cioè tu hai detto perché il progetto era già stato costruito, ma l'idea delle percussioni ci poteva stare, un qualcosa di percussivo, un momento di percussione? La prima idea del disco era senza ritmica, totalmente. Assolutamente senza ritmica. Poi sono stata, diciamo, un po' più io ad aprire a questa idea e però utilizzare la batteria in questo modo, come è stato poi, in maniera molto leggera. E lui in particolare ha questo modo di suonare, lo sapevo e ho chiamato proprio lui. E comunque assolutamente questo disco è consigliato ad ascoltare con le cuffie, sì. Perché con le cuffie e in ad santa alto pace volume, però, sì, ad alto volume anche perché in macchina con tutte le distrazioni che ci sono non si colgono tutti i particolari, bisogna alzare troppo il volume, a volte le casse delle povere autoradio non tengono la sonorità che si dovrebbe invece spargere nell'abitacolo. Allora, ancora un pezzo acustico, il tempo è tiranno, come diceva Attila, e adesso andiamo a riesumare una andiamo a pescare un qualcosa che fa parte del tuo disco precedente, L'acqua del mare non si può bere, sì. Un titolo davvero particolare, poi magari ci dirai il perché l'hai chiamato così, ce l'avevi già detto una volta, però vogliamo ricordarlo. Deve essere cambiato significato. Certo, benissimo, può essere rivisto, riveduto e corretto. Allora, splendida coerenza. Sì. Sto bene a casa degli altri, sto bene solo nella mia stanza, sto bene nelle mani degli altri, sto bene anche nelle mie mani, no, lasciatemi sola, oh no. Lasciatemi sola, sto bene da sola, sto bene da sola, va bene se mi tieni più stretta, va bene, oh, anche se mi trascuri la sete, è un bisogno primario, ma resisto, resisto, anche senza bere un sorso, sguazzo felice nella piscina e controsensi, ma la coerenza è la grande regina dei miei difetti, cara normalità, amante austera, io non sono più la tua sposa fedele che si trascinava fin sopra l'altare, sana fragilità. Ti fai strada, vieni dentro me, che paura io non avrò. Oh no, no, no, di mostrarmi sempre riconoscente. Sto bene. Degli altri sto bene, solo nella mia stanza mangio parole alla mensa ufficiale per l'indulgenza, ma nel lasciarti non sentirai molto, no, la mia mancanza, cara normalità, amante austera, io non sono più la tua sposa fedele che si trascinava fin sopra l'altare, che ti fai strada, vieni dentro me, che paura io non avrò, oh no. Oh no, no, no, no, no, no. Cara normalità, di pelle chiara, io non sono più il tuo umile attendere che tutto intorno continui a girare, sana fragilità di vita pura, io vengo da te, dalle tue mani io berrò. Perché possa spogliarmi di me finalmente, cara normalità, amante austera, io non sono più la tua sposa fedele che si trascinava fin sopra l'altare, sana fragilità che ti fa strada, vieni dentro me, che paura io non. We'll be right back. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo messo da parte per un attimo quello che è il disco La Guarigione, che stiamo sponsorizzando e spingendo in questo periodo, per dare spazio a un album che usciva nel 2008 per La Matricola, con distribuzione di Venus, splendida coerenza. E tra altre cose abbiamo assaporato una Veronica Marchi un po', diciamo, diversa, un po' più rock, rockettara al 100%. E ne abbiamo avuto la conferma anche sul finale, dove si era presentata quasi legata, adesso è proprio assolutamente cavallo sciolto, diciamo così. Beh, i suoi trascorsi rockettari vengono fuori, devono venire fuori. Rock non è una medicina, sì, fa bene, fa sempre sai, bene. Sì, dimmi. Sì, ma poi in realtà anche il disco sembra, come dicevamo prima, no, così calmo, sì. In realtà non lo è, perché ci sono tante dinamiche comunque molto forti, quindi c'è il risultato molto etereo dal sound, magari perché è acustico. Però comunque c'è sempre sotto questa vena energica. Certo, vena energica. Giustamente il nostro direttore artistico Alberto Pisco ha detto: mandiamo, invitiamo subito Veronica Marchi. Veronica Marchi è arrivata. Eccola qua, è arrivata. E allora, abbiamo parlato dell'acqua del mare non si può bere. Sì. È cambiato qualcosa del titolo? L'avevi spiegato in una maniera? Vogliamo... No, stavo scherzando, perché a me piace scherzare, ma in realtà no, è sempre lo stesso significato. Il titolo è arrivato poi dopo che io stavo cercando delle registrazioni, diciamo, per mettere un'introduzione al brano che poi era dedicato ai bambini, si chiama Re del Mondo, e ho sentito queste registrazioni fatte in una scuola materna, dove c'era questo bambino che urlava questa frase, perché faceva parte di un progetto in cui loro dovevano, non so, tipo dire delle frasi, e erano dei divieti dirlo ad alta voce. E allora ho pensato che forse questo disco ha come concetto legante, diciamo, questa cosa dei divieti. Infatti poi l'ho trovato questo significato un po' in tutti i brani, e allora l'ho chiamato così. Benissimo. L'acqua del mare non si può bere, e sottolineo, non si può nemmeno fare la pasta asciutta, perché avrebbe un sapore del tutto no, comunque va bene. Veronica Marchi, allora ci ascoltiamo un altro pezzo sempre da questo Acqua del mare non si può bere, che era stato anche preso da prima nel tuo primo CD, che portava il tuo stesso nome. Stiamo parlando con Dillo Piano. Eccolo qua. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Dei giorni in aprile e l'ingenua incoscienza della mia età, che ne sai, tu che ne sai, e del cielo di seta bagnata che incrocia destini e nasconde la verità, che ne sai. Accordati in un cielo che ancora non lascia serenità, che ne sai, tu che ne sai. E dei maghi, bugiardi, mercanti di male, parole, parole senza pietà, che ne sai, tu che piano, si intitola questo pezzo, l'abbiamo ascoltato dall'acqua del mare non si può bere, protagonista Veronica Marchi, qualche anno fa, ricordiamo, il 2008 usciva questo suo disco, è venuta anche qua in quel frangente per presentarlo e Veronica Marchi è ancora qui con noi, caramba che sorpresa! E allora abbiamo sfumato questo pezzo perché il tempo stringe, tempo, ma abbiamo veramente un calderone bello tosto da far ascoltare ancora prima di passare la linea al nostro protagonista. Dalle 22.30 circa alle 24 c'è il nostro amico Renato Ferro che ci presenta una bella carrellata di successi tra l'hard rock e heavy metal, quindi per chi ha orecchie ancora, sì, ancora belle sveglie, questa è la trasmissione giusta. Però noi naturalmente abbiamo sfumato questo perché con Veronica Marchi vogliamo approfondire ancora la dimensione live, mentre per il disco e anche per i precedenti dischi c'è tempo per andare anche a comprarselo, ecco, diciamo ancora, esatto, una volta, quindi La Guarigione, ricordiamolo, disponibile in tutti i megastore oppure anche ordinabile dal, sì, sito dell'etichetta, che dicevo prima, il sito è cabezonrecords.com, sì. Benissimo. Di Verona, vero? O anche volendo si può andare sul mio sito, sì, veronicamarchi.it, e da lì collegarsi direttamente al sito dove trovare i dischi, e poi su iTunes, tutti i portali digitali. Poi naturalmente dopo questa, sì, trasmissione ti contatteranno in tanti anche tramite Facebook. Speriamo, sì, sì. Ecco. Facebook si impalla facilmente. Quindi insomma è una cosa, sono contento perché è una rete in cui credo molto, alla fine adesso quei tempi che ci sono è l'unico modo per far sapere le cose alle persone, per far conoscere, è vero, proprio è un tam-tam di quelli, sì, di quelli veramente vitali. E allora abbiamo sfumato perché vorremmo ascoltare un qualcosa veramente speciale. Qualcuno ci ha detto, o qualcuna, che sai usare splendidamente la chitarra, soprattutto in una canzone, in un brano che non è tuo. È particolare questa cosa perché io faccio tantissime cover, sì, anche nei concerti. Mi piace tantissimo cantare canzoni degli altri. Però quando tu hai detto il nome del gruppo, noi, sì, abbiamo preso un po' paura. Abbiamo detto chissà cosa ci farà ascoltare. In realtà poi siamo un po' riveduti. Non preoccupatevi. Sì. La mia versione è comunque soft, è una canzone dei Foo Fighters. Eccola là. Ed è una canzone dell'ultimo disco dei Foo Fighters e si chiama Walk. Che è duretto, decisamente. È abbastanza duretto. Duro. È abbastanza duro, difatti. Veramente io essendo me stessa l'ho, sì, rivisitata a mio modo. Eccola qua, allora in una versione totalmente acustica, chitarra e voce, eccola qua, Veronica Marchi che ci fa ascoltare un pezzo di Foo Fighters. A million miles away, you're signaling distance to me, may concern. I think I lost my way. Getting good is starting over every time that I return. Learning to walk again. To see, I've waited long enough. Where do I begin now? Do you remember the days when we built this space? Sad and washed and burned. Ooh. keep alive a moment at a time, but still inside I whisper to Orion the sacrifice. But knowing to survive the first decline, another state of mind. I'm on my knees, I'm praying for a sign. Forever, whenever, I never wanna die. I never wanna die, I never wanna die. I'm on my knees, I never wanna die. I'm dancing on my grave, I'm running to the fire. Forever, whenever, I never wanna die. I never wanna leave, I never say goodbye. Forever, whenever, forever, whenever. Let it work again. Oh, I believe I'm waiting long enough. Where do I begin? Oh, let it talk again. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, un album questo del 2011 dei Foo Fighters, si intitola Western Light, yes. Però per ascoltare questa canzone bisogna ascoltare tutto il disco, Certo. Che per me è l'ultimo, esattamente. È molto difficile, essendo l'ultimo pezzo, a meno che non l'ascolti dal contrario, ma in molti casi complicato. In molti casi non è possibile. Allora, Veronica Marchi ci ha fatto ascoltare questo brano, diciamo, riveduto e correttissimo, ecco, quindi grazie. Che dà un'impressione totalmente diversa, un invito ad ascoltare i Foo Fighters, certo. Anche a chi piace il country. Sì, ma anche, hanno una dimensione acustica, allora hanno fatto anche cose acustiche. Molto bravi, sì, molto, sì, bravi. Molto bravi. Ecco. Quindi in realtà vedi, alla fine si incontrano, sono due modalità di... Certo. Anche perché dicono che i migliori brani lenti e sofferti sono quelli fatti dai protagonisti dell'hard rock e dell'heavy metal. Certo, questo è verissimo. Ah, sì. E in questo caso il nostro amico Renato Ferro può confermarlo. Esattamente. Ecco, anche se non metterà mai questi brani, però assolutamente lo conferma. Ascolteremo più tardi Renato Ferro, ma prima continuiamo a parlare con Veronica Marchi, ringraziandola per quella che è stata la sua partecipazione di stasera e per averci presentato quest'ultimo lavoro davvero ben fatto. Ancora complimenti. Grazie. Si intitola La guarigione. Ed è veramente bello. Abbiamo ascoltato alcune tracce in versione da disco, alcune tracce proposte in versione acustica da Veronica stessa. Grazie. Allora, Veronica, però prima di salutarci, un ultimo pezzo. Anzi, noi ci salutiamo, noi salutiamo gli ascoltatori. E poi ti teniamo i microfoni aperti solo ed esclusivamente per te, per pezzo. Volevo farvi sentire una canzone, La grande esclusa del disco. E quindi chiudiamo con un brano. E quindi che, per finire, un inedito. Che stava bene nella guarigione, che in realtà però forse 9 pezzi erano il giusto numero. E questa, boh, chissà se andrà in un altro disco. Intanto bene. C'è. No, noi confidiamo proprio che vada in un altro disco, ancora prima di ascoltarla, perché anche per noi. Diciamo è la prima volta che l'ascoltiamo assieme agli ascoltatori, mentre per gli altri ci eravamo anche un po' preparati, non troppo ma preparati sull'argomento. In questo caso, assieme agli ascoltatori, per la prima volta ascoltiamo la canzone. Allora, ancora grazie Veronica Marchi, grazie a voi. Buon rientro nella tua amatissima Verona, quindi ti lasciamo i microfoni aperti. Allora, noi salutiamo gli ascoltatori, grazie per essere stati con noi all'interno di Blu Radio Sera, da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Grande, caloroso ciao, a risentirci e buona serata. Veronica Marchi. La luna mi sorride, mi chiama. La luna piena in questa notte chiara, è un cielo senza forme né orizzonti, dice stai attenta a tutto ciò che vedi, a tutto ciò che impari, non essere bugiarda con te stessa. La luna non mi dice mai chi sono, aspetta che sia io a dimenticare che sono stata cieca troppo tempo, elemosinando amore. Non riesco mai a privarmi di una rosa regalata, la lascio sempre a testa in giù a seccare appesa a un chiodo. Un nastro rosso spesso la sorregge mentre si trasforma e sembra sapere già che tutto passa. Sospesa lì nel mezzo della sera, mi viene voglia di starle vicino, ha un abito da festa stretto in vita, l'aiuterei a disfarsi del suo strascico pesante, la porterei una volta a cena e le direi di me, e lei sopporterebbe perché già conosce tutto di te. Riesco mai a privarmi di una rosa regalata, la lascio sempre a testa in giù a seccare appesa a un chiodo, un nastro rosso spesso la sorregge mentre si trasforma e sembra oh, sapere già che tutto passa. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera.